Buona vigilia di weekend, si torna in diretta come ogni venerdì con il Jazz Live, primo venerdì del mese di febbraio, 2 febbraio, 11:30 minuti, quindi puntualissimi, si riparte con quello che è l'osservatorio sul jazz, ovviamente dal vivo, con sedi concertistiche, Jazz Club Ferrara protagonista, ma non solo, conosceremo in provincia di Ferrara anche una realtà importante che prevede un'estensione musicale non solamente per quanto riguarda le note blue jazz ma anche altro. Beh, lo troveremo più avanti. Intanto però partiamo da Bologna, siamo a Bologna e quindi giustamente vediamo anche quello che è il binario 69 con la rubrica Ascoltati per voi. Ieri un concerto veramente molto particolare, lui talentuoso chitarrista di origine siciliana, strutturato colto, con approfondimento musicale molto forbito, un avvicinamento costante, un'aderenza al rock, una distorsione musicale che va in ricerca con le note di Thelonious Monk. Domenico Caliri, con una formazione di cui darò poi formazione nel senso di annunciazione dei componenti a breve, ha dato al binario 69 questa lettura nella maniera più colta e allo stesso tempo innovativa, aggiungendo rock alle sonorità del grandissimo Thelonious Monk. Thelonious Monk, come ben sappiamo, musicista innovatore, anche lui genio e sregolatezza. Caliri è più regolato, indubbiamente, anzi colgo l'occasione per salutare Domenico. Abbiamo portato, mi permetto di usare il plurale in quanto il DJ set per la serata al binario con Radio Città Fujiko, la presentazione letteraria. Ecco, la letteratura è un altro aspetto che per il binario vorrei portare nelle serate del giovedì. Vedremo, ne daremo poi anticipazione a suo tempo, un po' alla volta, con calma. Tempo ne abbiamo, abbiamo appena iniziato il 2024 e quindi avremo modo con ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, del Breakfast Club e del Jazz Live di avere approfondimento di intersezione tra jazz e letteratura al binario. È una giornata bellissima, la promessa del venerdì col sole col Jazz Live è stata mantenuta. Saluto Alfredo che oggi non può essere in diretta con noi, lo aspettiamo ovviamente per le prossime puntate. E partiamo in musica, ascoltati per voi nella serata di ieri. Il sogno di Domenico Caliri è trovare un Thelonious Monk in veste più rock, come ho già detto, quindi una formazione pianoless di cui darò poi nome per nome di componenti al termine di questo piccolo brano che ho cercato di mixare con una struttura originale di Thelonious Monk per una guida all'ascolto e per far sentire quello che è un'elaborazione e poi un lavoro originale. Il disco da cui è stato tratto questo lavoro di Thelonious Monk è The Brilliant Corners, un capolavoro assoluto, con lui Sonny Rollins, con lui Max Roach, uno dei dischi più importanti nella discografia del pianista Monk, con il lavoro di Domenico Caliri, che andremo in intersezione tra le due realtà, troveremo appunto come questo incontro è avvenuto ed è stato espresso al binario 69. Quindi iniziamo con la nostra playlist, la musica d'improvvisazione radicale si trasforma poi in qualcosa di più leggibile con il Bamsha Swing di Thelonious Monk e vediamo queste trasformazioni come andranno incontro alla sonorità originale. E un buon ascolto con il Jazz Live. con questa guida all'ascolto e Bamsha Swing dall'interno di The Brilliant Corners, uno dei capolavori di Thelonious Monk, con Max Roach, con Sonny Rollins, poi riportato dal sogno che magari diventerà realtà in quanto stiamo aspettando la pubblicazione per il lavoro di Caliri, che vede al suo fianco, si è presentato col contrabbassista Filippo Cassanelli, due sassofoni tanto talentuosi quanto incisivi all'interno di questa struttura musicale, Canio Costa e al contralto Federico Califano, Canio Coscia, scusate che lo confondo con Gianni Coscia, che è il fisarmonicista per Egea Record. Quindi una formazione giovane, Filippo Cassanelli al basso, Canio Costa, Coscia e Dai al sax tenore e Federico Califano al sax contralto. Domenico Calieri alla chitarra elettrica e a questi arrangiamenti. Quindi appunto, come ho portato nella presentazione in musica, nella guida all'ascolto, quello che è un lavoro pianoless, Thelonious Monk, pianista, lui stesso diceva la musica a otto note, l'ottava è il silenzio, un genio, genio anche sregolatezza nella vita al di fuori della costruzione musicale, però del resto genio e sregolatezza spesso vanno a braccetto. Domenico ha tolto il piano e ha dato a questa narrazione musicale un aspetto molto più rock e con distorsioni alla chitarra elettrica, ed è stato molto particolare sentire questo incontro per l'attesa di un disco che, sì, sto aspettando. Magari lo presenteremo a Radio Città Fujiko, anzi, sicuramente. È il momento del Torione anche qui, ascoltati per voi, e questo ascolto ci ha invece regalato dei sogni di incontro con una musica che ha una sacralità molto intensa. E YM è un trio che è andato in complemento con un featuring di Varia Shre Venugopal, musicista e cantautrice, con questi vocalizzi che rasentano, anzi danno parallelismo a una musica sacra, e allo stesso tempo col trio di cui ho dato presentazione sono riportate le iniziali dei componenti, YM Trio, quindi un piano trio molto particolare, la struttura musicale del pianista assolutamente da compositore ma anche da virtuoso, la batteria qualcosa di trainante nella musica e nel modern jazz, l'interplay al contrabbasso hanno non portato una classicità in modern jazz, tutt'altro, hanno dato un aspetto magari innovativo a quella che è una lettura verso una musica sacra, e ha una sensazione evocativa per l'ospite che già stiamo ascoltando, Varia Shre Venugopal, anche una virtuosa al flauto traverso. Ne ascoltiamo qualche nota dal disco Bangalore, che appunto è il loro ultimo lavoro che viene proposto qui al Jazz Live. jazz and Carnatic music, questa spiritualità che viene riproposta, è stata riproposta nell'apertura per lo scorso weekend, esattamente una settimana fa, un concerto che ha dato, oltre che la nota di una nuova sonorità, di una sonorità non così consueta ma allo stesso tempo importante, il modern jazz del trio EYM con grande originalità. Siamo arrivati a questo venerdì, quindi dopo aver proposto ascoltati per voi, vediamo un po' quello che troviamo già da questa sera alle ore 21:30. Ferdinando Romano, Invisible Painters, il nuovo album di Ferdinando Romano, a 3 anni di distanza dal suo disco di debutto Totem, un disco molto apprezzato che ha avuto riconoscimenti come miglior nuovo talento italiano nel 2020, Top Jazz annuale della rivista Musica Jazz. È una matrice che proviene dal mondo della musica improvvisata, ma allo stesso tempo ha una grande capacità di mescolarsi con l'elettronica e con l'ambient e le sonorità del Novecento. Musica elettronica che diventa protagonista per quanto riguarda la playlist da adesso in avanti, perché come ben sapete il Torrione in maniera così sottesa lascia sempre delle linee d'ascolto che hanno un filo conduttore. Per quanto riguarda questo weekend, al venerdì e alla domenica la parte elettronica è decisamente presente. Ho contattato Ferdinando Romano per dare in anticipazione il concerto di questa sera, direi di ascoltare le sue parole. Nel 2022 in realtà è uscito nel 2023, a giugno 2023, con una nuova etichetta, tra l'altro, che si affaccia sul panorama italiano, che si chiama Jam and Jam, un'etichetta retina. Abbiamo deciso, diciamo, di intraprendere insieme questo percorso di per loro era la prima uscita e insomma ho deciso un po' di affrontare questa avventura insieme a loro e siamo molto, insomma, contenti di questo lavoro fatto insieme è un lavoro molto molto particolare, perché, diciamo, rispetto alle cose che ho fatto in precedenza, nel disco precedente Totem era una formazione diversa perché era un settetto, addirittura formazione completa, quindi una formazione molto grande, e questo invece è un gruppo in quartetto e rispecchia anche soprattutto anche un percorso di ricerca e di lavoro che ho intrapreso nell'ambito della musica elettronica. E con questo quartetto ho molta possibilità, diciamo, di sperimentare proprio per la combinazione di suoni che si vengono a creare, non solo sotto il profilo, diciamo, elettronico, ma anche proprio sotto il profilo acustico, e abbiamo la possibilità di sperimentare molto in questo senso, proprio sui timbri, sui suoni, di improvvisare molto su questi parametri anche dal vivo. Federico Romano al contrabbasso, ai sintetizzatori, elettronica, Federico Calcagno, clarinetto e clarinetto basso, Valentin Gherardus, pianoforte e sintetizzatori, una ragazza alla batteria e Vita Polidoro. E con Invisible Painters, ultimo lavoro che sarà in presentazione al Torrione, la possibilità anche di avere questo lavoro, il riferimento al post-impressionismo, sapete bene la mia passione anche nel Breakfast Club per l'arte, e subito le immagini di Degas, che tra l'altro è anche a quanto pare un artista nelle corde di Ferdinando Romano, che come ho detto questa sera alle 21.30 sarà al Torrione. È formata da Evita Polidoro alla batteria, Federico Calcagno al clarinetto basso e clarinetto, Valentin Gherardus al pianoforte, sintetizzatori e live sampling. Poi se volete vi spiego anche esattamente che cosa fa, diciamo, con il live sampling dal vivo, e io che suono appunto il contrabbasso, synth modulari e samples e effetti. Ho spostato il gruppo e poi che cerchiamo di mantenere anche nelle improvvisazioni live, non solo nella scrittura, è quello di creare questo, diciamo, rapporto stretto fra la parte elettronica e la parte acustica, giocando sul profilo timbrico soprattutto, quindi sui suoni, e mescolarli in modo che, diciamo, si senta come se c'è il gruppo acustico a cui poi si aggiungono degli elementi di elettronica, ma piuttosto fare in modo che queste due cose si intreccino veramente fra di loro. Faccio un esempio, per esempio magari un timbro del mio sintetizzatore del sintetizzatore di Valentin, per esempio nel caso specifico di un pezzo che ho proprio pensato a un timbro specifico perché il clarinetto in quel punto deve suonare in un registro particolare e proprio si mescolano particolarmente bene, insomma, a mio avviso i due timbri, cioè il clarinetto suonato in quel registro e quel tipo di suono creato del sintetizzatore, quindi è proprio una volontà di mescolare le due cose, quasi al punto che certi suoni potrebbe a volte venire il dubbio se sono stati realizzati da magari un effetto particolare dello strumento acustico o invece un processo, insomma, legato all'elettronica. Certo. E in questo mi riallaccio anche a quello che avevo un po' detto prima del live sampling che fa Valentin, perché lui raccoglie con la sua scheda audio il segnale del clarinetto, cioè microfono e clarinetto, la batteria e il suo stesso pianoforte, e mentre suonano in molti momenti di improvvisazione lui li, questo suono, quel segnale che riceve, lui lo processa in tempo reale. Quindi per esempio su un brano c'è un solo di batteria in cui Evita appunto fa questo solo, il suono della batteria viene riprocessato da Valentin, ovviamente si sente anche il suono acustico in sala, e è interessante perché a un certo punto la batteria dialoga con questi suoni che sono realizzati partendo da quello che lei a sua volta ha suonato prima. Thank you. come vi ho detto, la musica elettronica è un sampling del lavoro che viene portato dalla ritmica, prodotto in tempo reale e poi riproposto, e con improvvisazioni che arrivano dalla composizione di Ferdinando avremo questa invisibile arte figurativa. Ma di musica elettronica continueremo a parlare, lo faremo con Alfonso Santimone, che sarà presente per quanto riguarda Serco Tonale, la serata di domenica al Torrione. Sapete che dà spazio in questo caso anche a delle sonorità ancora più elettroniche o ancora più radicali. La rassegna Serco Tonale è curata da Istantanea, è un doppio appuntamento con Gaspare De Vito e con Alfonso Santimone nel suo chiamiamolo nickname per quanto riguarda la musica elettronica, che è Black Hole Unlimited. Durante la conversazione con Alfonso mi ha citato il grandissimo Aphex Twin, e quindi ho portato una selezione di lavori electro ambient per la Warp, ha citato Square Pusher, tutte le sonorità EDM che da questa label, poi la Reflex, la Scam, i Boards of Canada. Posso dire che finalmente il jazz ha motivo di, non ha paura di conoscere anche questi suoni. Ne sono molto contento, e con Alfonso Santimone, molto disponibile ai microfoni di Radio Città Fujiko, andremo a conoscere anche le modalità di composizione. Ricordo che Alfonso, all'interno della Tower Jazz Composer Orchestra con Piero Bittolo Bon, curatori del progetto della Tower Jazz, è anche collaboratore per diverse altre situazioni in musica con il conservatorio. Insomma, una eterogeneità di proposta musicale che ora spazia anche in ambito elettronico. Parliamo di un oceano di possibilità di musiche in contesti diversi, con funzioni diverse, diciamo, che vanno dalla sperimentazione più ardita, che fin dal XX secolo tanti compositori hanno fatto. Proprio ieri sono stato ad ascoltare la quarta recita del Prometeo di Luigi IX a Venezia in occasione del suo 100° compleanno, e ho avuto anche la fortuna di conoscere Nuria Schönberg, cioè sua moglie e figlia del grande compositore, e in questo lavoro c'è un grande dispiegamento di forze in senso di elettronica, anche se ridotto rispetto alla edizione originale, per dire che questa è una collocazione. L'altra collocazione è che ormai l'elettronica invade anche tutte le sonorità del pop, sia di quello più ricercato ma di quello anche più di cassetta, e non solo, invade naturalmente i settori legati all'improvvisazione, sia di matrice jazzistica che anche di matrice, come si dice, non jazzistica, o comunque eurocolta, vediamo come la vogliamo chiamare, non sappiamo mai, e anche però tutta una serie di figure limite che negli ultimi 30-35 anni si sono mosse nella musica, nelle varie musiche, sia in Europa che negli Stati Uniti, e che hanno sperimentato nella dimensione del beat, quindi anche proprio di una qualche tipo di danza, di qualche tipo di rituale danzereccio, le forme di elettronica più spinta. Mi riferisco ai vari Aphex Twin, Square Pusher, eccetera eccetera eccetera. Sì, tutto, anche la musica EDM, Intelligence Dance Music, certo, ma per non dire ovviamente di tutto ciò che viene dal mondo americano, la house di Chicago, la techno di Detroit, che poi insomma si è diffusa in Europa, e quindi tutto quello che è successo a Berlino e a Londra e anche in altri posti, in Olanda eccetera. Quindi insomma l'elettronica nella musica vuol dire l'attualità, ma vuol dire anche la storia in qualche modo, e sicuramente vuol dire un pezzo di futuro, indubbiamente, insomma, sicuramente. Quindi è più un insieme di strumenti che si usano, diciamo digitali, analogici, informatici eccetera, che si usano in contesti di musica molto diverse tra loro, e quindi dare una definizione precisa non saprei farlo, posso certo. dire che è un oceano di cose, ecco, io insomma. Dico che è un iceberg di cui noi vediamo sempre la nostra punta e poi dopo sì, non è male, ovviamente è la declinazione più estesa. E invece è bellissima anche la declinazione Sea Lab, che si confonde con sì. lab e nello stesso tempo laboratorio di istantanea. Tu sì, sarai, o laboratorio contemporaneo, sì, eccetera. Sì. Diciamo che questa serata che faremo il 4 domenica prossima al Torrione vorrebbe essere nella nostra idea la prima di una lunga serie. Mi affascina da molto, e non sono l'unico naturalmente, in Europa e negli Stati Uniti e in altri posti, ma anche in altrove, appunto. Ormai la questione della musica elettronica è anche una questione asiatica, una questione africana, una questione sudamericana, quindi ormai è una questione mondiale. Mi interessa molto l'idea di coniugare le forme di musica di ricerca contemporanea, qualunque cosa questo voglia dire, e quindi cose che stanno in qualche modo lontane dal mercato, diciamo così, con la dimensione invece del clapping, che è quella dove succede qualche forma di rito collettivo più o meno ad alta intensità o anche a media bassa intensità, che va dal bere qualcosa insieme, ascoltare la musica che passa, e dal ballarci sopra e in qualche modo ad ascoltarne le suggestioni. Alfonso, come lo chiamo io, Alfonso d'Este, visto l'origine ferrarese, oltre che un viaggio nei secoli, in questo caso da un viaggio anche nella musica elettronica. Lui compositore, pianista, tastierista, già affermato in diversi progetti, ora con questo Black Hole Unlimited, tra l'IDM, la minimal techno, l'intersezione con il jazz, finalmente, ecco, questo già da tempo. Da ascoltatore appassionato di EDM pensavo, ma provare un incontro anche con il modern jazz e una sorta di sampling e di lavoro prodotto, e infatti è arrivato con Sea Lab, cioè è un gioco di parole che è club e nello stesso tempo laboratorio. Se Enrico Tonali istantanea è la domenica, verrà, vediamo se questi percorsi prenderanno insomma una posizione di interesse, anche perché ampliano poi, oltre che la curiosità e l'ascolto, anche la possibilità di musica dal vivo. Ma cosa ascolteremo tra i due progetti domenica? Prevede un doppio set, non so, penso che toglieremo le sedie, per dire, insomma, credo che faremo, certo. Creeremo un'atmosfera diversa rispetto a quella dell'ascolto seduto, e ci sarà un doppio set dove nella prima parte ci sarò io sotto un nome che uso ormai da tanti anni quando faccio cose elettroniche di varia natura in solo, che è Black Hole Unltd o Unlimited, che dir si voglia, che è un po' come dire una specie di proprio come un buco nero, attira qualunque particella di luce gli passi intorno, cioè ci sono tanti linguaggi che vengono frullati in una dimensione che però è quella del tempo reale, dell'improvvisazione e dell'utilizzo del computer, nel mio caso, dei controller associati. E quindi produrrò per un po' di minuti, 40, 45, non so bene, in apertura di questa serata una improvvisazione però beat oriented, cioè nel senso che potrebbe anche dare adito e far venire voglia di muovere le zampe a qualcuno, utilizzando però materiali sonori, oltre a quelli che io produco attraverso le mie macchine elettroniche virtuali, campioni del repertorio di istantanea, delle composizioni originali di istantanea. Bello. e anche di, come uso spesso fare, sorgenti sonore che vengono dalle culture di tradizione musicali nel mondo, quindi musiche proprio ma anche molto antiche che hanno che sono musiche insomma in qualche modo folcloriche, popolari, che vengono da luoghi molto distanti tra loro. Tu di questi campioni ne fai un editing e poi proponi. Diciamo che è come se io li campionassi in tempo reale, perché cerco di non preparare niente prima. Cioè in tempo reale, ok. Nel senso che io faccio andare questi campioni nella mia cuffia di ascolto e ne prelevo all'impronta dei pezzi, questi pezzi diventano tasselli di un mosaico più complesso, dove ci sono altre cose che invece io, come dire, suono al momento con delle specie di drum machine virtuali e altre cose, insomma. In seguito invece c'è il set di Gaspare De Vito, che è un amico musicista che conosco da tanti anni, che viene dal jazz, nel senso che lui è un sassofonista come formazione di matrice jazzistica, però negli ultimi anni si occupa molto di qualcosa che sta tra l'ambient, la minimal techno, diciamo così, in senso lato. È sempre difficile definire le cose, però insomma, tanto per avere un'idea di che suono ci possiamo aspettare, e lui usa una serie di macchine, non usa il computer, lui usa macchine diciamo stand alone, quindi varie drum machine, vari sequencer, vari sintetizzatori in forma di scatolette, diciamo così, e produce un set che appunto ha questo percorso che va un po' dall'ambient fino alla minimal techno. E la cosa interessante è che il suo ultimo lavoro è costruito unicamente con i suoni del sassofono, quindi del suo sassofono naturalmente, quindi ogni sorgente sonora è ogni diciamo suono che lui mette diciamo in sequenza, anche lui utilizzando molto l'improvvisazione, proviene dal suono del, tutto questo però in una dimensione che è orientata molto al ritmo della cassa dritta sostanzialmente, quindi anche un linguaggio tanti. Esatto, un linguaggio che ormai domina i dance floor di tutto il mondo da 40 anni e più ormai, insomma, quindi appunto dai tempi della Factory di Chicago, eccetera, eccetera, insomma, quindi... Benvenuto l'idea di Silab istantanea al Torrione. Beh, grande curiosità. Io ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te per le domande e per l'interesse. Alfonso Santimone, Gaspare De Vito, al Torrione domenica 4 febbraio. Grazie e grazie, buona giornata. Ciao. A voi tutti, ciao. Confesso che da impiccione il quale sono, ho detto, allora se con la drum machine riesco a campionare suoni e poi a proporre, adesso vediamo, è giusto, mi rendo conto, voglio mettere sempre il naso anche nel programma del neonato C-Lab al Torrione. Non ho ancora capito se Alfredo veramente ha un impegno oppure non so se queste sonorità sono particolarmente attinenti al suo gusto, però insomma tant'è per quanto riguarda questo weekend a Ferrara al Jazz Club. Rientriamo invece, perché poi sabato ci troveremo con Alfredo, con Sandro Baroni, con appassionate e appassionati per il main concert, dove un protagonista, Michael Formanek, ecco altra linea del Torrione di questo weekend, al contrabbasso avrà motivo di presentare lavori e linee di modern jazz, oltre che colto anche di grande gusto, tra pochissimo, dopo la pubblicità sui 103.1. intanto un po' di Aphex Twin non fa mai male, Che bello che lui è Boards of Canada numeri uno tutti i tempi per me. Questa è una bombarda. We'll be right back. eccolo qui il main concert, per sabato 3 febbraio. Questo lo troverete alla prossima puntata in Ascoltati per voi. Da non perdere, Michael Formanek. Michael Formanek al contrabbasso, Michel Attial, sax alto, Alexander Hawkins, pianoforte, uno dei dischi dell'anno del 2023, Devin Gray alla batteria, Alexander Hawkins anche lui, adesso è un pasto scatenato Alexander Hawkins nell'accezione più positiva, quindi questo incontro con Michael Formanek, che ha composto anche insieme ad altri musicisti del calibro di Tony Williams, John Anderson, Tony Williams batterista del secondo quintetto di Miles Davis, ha composto con Tim Berne, ha composto per la SM, insomma give and take, non è un gioco a due nella pallacanestro, quello del give and go, il dai e vai. Questo invece in musica penso che abbia altre accezioni e sarà presente nel main concert, appunto come vi ho preannunciato per la giornata di domani. Modern jazz che vede un'improvvisazione libera, come potete ben ascoltare, ma allo stesso tempo non mancano certo dei frammenti tematici più leggibili e strutture tra ritmo e armonia che possono essere riconosciute. Questa modalità di composizione dà la possibilità ai sidemen vicino a Formanek di volare poi con interpretazioni che, come possiamo sentire da questo esempio, certamente danno un insieme e allo stesso tempo non trascurano il talento personale. Ascoltiamo per un po' e poi vi ho promesso anche qualcosa in provincia di Ferrara. Sì, siamo a Vigarano Mainarda, il gruppo dei 10. Sono 9 appuntamenti a partire da questa sera. La location è un locale che porta il nome di Spirito, ovviamente a Vigarano Mainarda, in tutte le direzioni in winter and springtime. Quindi una collezione inverno-primavera e notte per quanto riguarda le direzioni del gruppo dei 10, che conosceremo alla direzione artistica o co-direzione artistica. È la prima volta che ci sentiamo, è la prima volta che porto questa rassegna all'interno del Jazz Live. Ho trovato anche delle particolarità, insomma ne parleremo con Alessandro Mistri tra poco. Intanto vi lascio con Michael Formanek, il main concert il sabato, perché ormai sono tutti main concert, al Torrione, con il progetto di cui ho dato presentazione Give and Take. Buon ascolto allora, a tra poco. antichissimo Jazz Live che è partito con Ascoltati per voi al binario 69 di Bologna, il concerto di venerdì scorso al Torrione, piano trio, una sonorità spirituale che è andata a complementare un concerto veramente molto intenso, la presentazione di questo weekend con il lavoro di Ferdinando Romano che dà già il via a una scrittura elettronica che arriverà al culmine con il lavoro di Santimone, Black Hole Unlimited per Serico Tonali Istantanea progetto C-Lab. Sabato invece, domani, nel concerto a metà weekend con Michael Formanek al contrabbasso che ci sta facendo da base con questo brano Rivers. E non finisce qui, conosciamo anche una parte di provincia di Ferrara che è esattamente Vigarano Mainarba. La sede è Spirito, di cui ci parlerà a breve per quanto riguarda il gruppo dei 10 Alessandro Mistri, che è qua in diretta telefonica con noi. Grazie e buongiorno Alessandro. Ciao, ciao, buongiorno a voi. Leggo tutte le direzioni in Winter and Springtime ed è veramente un aspetto molto eterogeneo, eh? Anche per così dire che stupisce già dalla serata di questa sera, ma tanto altro, interpretazioni, proposte, un aspetto trasversale in una scrittura jazz e non solo, alcuni molti legati alla tradizione e qualche particolarità. Intanto ci puoi dire qualcosa di più per quanto riguarda il gruppo dei 10 Alessandro? Molto volentieri, tieni presente che devo partire da una minima nota autobiografica perché, come poi forse saprai, io sono stato un po' il fondatore insieme a degli altri che purtroppo però non ci sono più del Jazz Club Ferrara. Ti interrompo subito allora, sai perché ti ho contattato? Perché in conferenza stampa Francesco Bettini, che per me è un, come ti posso dire, redattore ormai di Radio Città Fujiko, una collaborazione, poi insomma sì, conosciamo tutti Francesco, ha citato il gruppo dei 10, al che mi trovo una mail, cosa che non faccio mai perché non leggo le mail, e trovo una mail dal gruppo dei 10, dico mi ricorda qualcosa, aspetta che li contatto, e così sono arrivato a te per quanto riguarda l'attinenza c'è. Ok. Allora no, da Tinezza c'è come, anche perché io sono stato direttore artistico prima di Francesca del Jazz Club fino al 2006, poi dopo una brevissima pausa per ristorarmi dalle fatiche diciamo organizzative che erano molto impegnative del Jazz Club, non sono riuscito a star fermo e da lì è nata l'idea del gruppo I10. Il gruppo I10 è un insieme di amici, non siamo più in 10 ma siamo in 18, dove senza alcun finanziamento pubblico, e ci tengo a dirlo, ma solo con le nostre piccole risorse, siamo un fenomeno quasi di mecenatismo egoistico, cioè nel senso che le cose le facciamo per noi, ma nello stesso tempo significa che le facciamo in modo tale che tutti possano venire poi alle serate e godere di quello che riusciamo a combinare. Naturalmente l'idea è stata quella di aprire, non essere legati soltanto a un genere o un linguaggio, ma cercare anche di divertirci e fare delle cose che normalmente non si farebbero e che certamente non avrei potuto fare al Jazz Club, che è molto più rigoroso di quanto non siamo noi, ecco. E come hai detto giustamente tu, a partire da stasera abbiamo già una serata che in qualche modo è eversiva, non per niente sì, tutte le direzioni, il titolo di tutte le nostre rassegne che facciamo stagionalmente, ecco. Siete riusciti nell'impresa, nel farmi pronunciare quello che io in radio non so se ho mai pronunciato più di due volte, che è la parola Sanremo, ecco. Però leggo, attenzione, che è uno spin-off, è un concerto di Franco Fasano e Max Tagliata, voce piano, Max Tagliata voce fisarmonica e piano, il duo accompagna gli spettatori in un viaggio nel meglio dei 73 anni della canzone italiana con una commistione divertente e ispirata tra sfumature jazzistiche e cantautorato. Bello, è un Sanremo bello questo, è un Sanremo bello. Ti ringrazio per questo l'appuntamento che precede la serata. Comunque l'idea è stata mia e di Franco Fasano, che conosco, un amico carissimo, oltre che un grande interprete della musica, delle canzoni, naturalmente oltre che grande autore e compositore. L'idea è proprio quella di riproporre, saranno 33 canzoni, per cui la serata si preannuncia abbastanza lunga, riproposta appunto da Franco insieme a Max, e sono quelle canzoni che non hanno vinto a Sanremo, una selezione. Bello. È ancora più particolare. Che sono quelle che però ci hanno accompagnato molto, forse anche di più di quelle che hanno vinto nella nostra vita. Poi sai, avendo una certa età, avendo una vita fortunatamente abbastanza lunga, devo dire che l'accompagnamento si è protratto nel tempo. E tra l'altro il pubblico stasera, giocando naturalmente, contribuirà, perché faremo votare queste 33 canzoni, ci saranno 11 finaliste e poi 3 da cui emergerà quella che per noi, secondo il pubblico dello spirito, è la canzone più bella di questa selezione. Certo, ci troviamo a Vigarano Mainardi. Serate saranno quella successiva, sabato 17 febbraio, tra l'altro con un impegno importante, l'Associazione per la lotta alla talassemia Rino Vullo, in collaborazione con il Gruppo dei 10, un concerto che dà un tributo a Jimmy Villotti, chitarrista recentemente scomparso. Dopodiché sabato 24 febbraio, già al titolo The Italian Groover, con Enrico Zirilli alla batteria, la presenza dell'organo Hammond B3, che quando parliamo di groove c'è molto spesso, e in questo caso lo spirito di Vigarano Mainard non manca. E quindi, insomma, leggo dei nomi di ispirazione quanto mai diversificata. Ho portato un disco bellissimo, Money Jungle di Duke Ellington, perché fantastico. Ci sarà anche Duke Ellington in tutto ciò. Non Duke Ellington. Se permetti, William, ti dico che mi ricordo ancora l'incipit della presentazione di Money Jungle, diceva: non è un trio ma un trio virato, perché c'è un appunto certo. In questo Ellington, appunto, Max Roach alla batteria. Certo, e Nico Menci al piano in questo caso, Alfonso Vitale alla batteria e Tony Coffey al sax contralto e sax soprano. Insomma, guarda, prima di congedarci ti chiedo di dare, ci tocca, anche qualche indicazione per trovare, perché sai, verbo volan, mentre invece un'informazione per quanto riguarda una consultare più comodamente il programma del Gruppo dei 10 allo spirito, ci sono piattaforme online, immagino. Sì, ecco, naturalmente lì io sono scopertissimo, perché affido tutto ad altri che se ne occupano. Okay, però ecco, vi dico che lo spirito è un locale molto bello, tra l'altro noi ormai la consuetudine è quella di trovarci a mangiare qualcosa, cioè a cena, e poi il concerto parte dopo la cena, ed è a Vigarano Mainarda, in via Rondona 11, ma si trova tutto se uno va sulla pagina Facebook del Gruppo dei 10, per cui lì ci sono tutte le indicazioni necessarie. Per cui mi auguro veramente di ampliare la presenza con le persone che hanno voglia di divertirsi insieme a noi. Beh, noi diamo spazio anche alla tradizione, ci mancherebbe, anzi è importante. A volte portiamo, anzi costantemente portiamo, il disco che fa da filo conduttore. Quest'oggi il disco standard è Money Jungle per la puntata odierna, quindi direi che ha l'attinenza con tutte le direzioni in Winter and Springtime nel Gruppo dei 10 a Vigarano Mainarda. Il locale è lo spirito, la direzione artistica Alessandro Mistri, ci siamo conosciuti, abbiamo rotto il ghiaccio, e quindi io ti ringrazio per la disponibilità e avremo modo di ritrovarci magari sempre su Jazz Live e Radio Città Fujiko. Grazie a voi, e conto molto su questa continuità, anche perché stiamo parlando di musica che merita sempre di essere ascoltata, certo. Come quel magnifico disco che hai scelto tu come linea conduttrice. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, buon weekend. Ciao Alessandro. Altrettanto. Ciao. Altrettanto. Questo veramente è un dipanarsi totale, questo disco Money Jungle di Duke Ellington. Pensate, un triumvirato, non ci ho pensato, ma è un bel gioco di parole, con Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Abbiamo aperto con Brilliant Corner, alla batteria c'era Max Roach, chiudiamo con Money Jungle e ritroviamo Max Roach. Dare una ciclicità a tutta questa diversificazione mi dà anche una certa sicurezza, se vogliamo. Come di sicuro vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento venerdì prossimo, magari con Alfredo, anzi sicuramente con Alfredo Pasquali alla Jet Live, e vi auguro un buonissimo weekend, una buona musica e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana.